ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Tredicesima puntata. Quando si svegliò, intirizzita, ricordò ogni cosa e con improvvisa lucidità di mente pensò a quanto le restava da fare. La febbre era cessata ed ella non sentiva più né terrore né paura né indecisione. Ritornava ad essere una creatura di finzione e di silenzio in lotta con la sorte maligna. Perché tremare? Perché smarrirsi? Ella non aveva nulla da perdere, purché non accadesse male ai suoi benefattori. Non sperava nulla per sé in questo mondo e non credeva nell'altro. Si alzò, sbadigliò, rabbrividì di freddo. La notte era alta ancora, ma si udivano i galli cantare e qualche roteare di carro risuonava in lontananza, nel silenzio delle straducole umide, illuminate dalla luna. Come un vecchio delinquente, ella cominciò a preparare ogni cosa prima di chiamare i suoi benefattori e prima di tutto guardò se il canapè era abbastanza in disordine. Poi tolse la coperta dal viso della vittima e stette lungamente a guardarla. Il vecchio continuava a sorridere col suo orribile sogghigno, ma il volto s'era fatto grigio, gli occhi si erano un po' socchiusi e appannati. Ella avrebbe voluto scuotere il cadavere, fargli prendere un'altra posizione, ma non osò. Le destava un raccapriccio invincibile, le pareva che toccandolo le sue dita sarebbero rimaste attaccate a quelle carni morte. Poi si levò il corsetto, il grembiale, li depose sulla sedia, si scompigliò i capelli, si passò le mani sul viso, sugli occhi, quasi per comporsi una maschera d'indifferenza. Poi salì al primo piano e batté all'uscio della camera di donna Rachele. Gli uomini dormivano all'ultimo piano. Zio Cosimo, anzi, s'era fatto un lettuccio su in soffitta tra i mucchi di frumento e di legumi. Donna Rachele si chiudeva a chiave. Ella dormiva poche ore della notte, ma aveva il sonno pesante e Annessa dovette picchiare 3 volte per svegliarla. «Donna Rachele, apra! Zio Zua sta male, sta per morire!» «Gesù Maria, va e chiama subito Prete Virdis, vai, chiama mio padre!» gridò la vedova correndo ad aprire. Rosa, che dormiva con la nonna, si svegliò e si mise a piangere. Annessa entrò nella camera col lume in mano e mentre donna Rachele si allacciava tremando la sottana disse tranquillamente: «Non si spaventi, credo che zio Zua sia morto.» «Come lo dici?» gridò la vedova correndo scalza verso l'uscio. «Morto, così! Senza sacramenti, senza niente. Che dirà la gente, Signore mio Dio, che lo abbiamo lasciato morire così? Ma perché non chiamavi?» «Non mi sono accorta di nulla. Ora, pochi minuti fa, mi sono svegliata e non...» Donna Rachele non l'ascoltava più. Scalza, in sottanino, s'era precipitata giù per le scale, al buio, gemendo e gridando: «Senza sacramenti, Dio, Signore mio, senza sacramenti!» Rosa piangeva sempre. Don Simone batté il bastone sul pavimento della camera. Paolo aprì il suo uscio e domandò: «Cosa c'è, Annessa? Mamma?» Annessa ricominciava ad aver paura, ma oramai aveva piena coscienza di ciò che aveva fatto, di ciò che poteva accadere, e si dominava energicamente. Cercò di far tacere Rosa. Rispose a Paolo: «Scenda subito, chiami i nonni, zio Zua è morto.» Subito Paolo si vestì e corse da Don Simone, che picchiava sempre forti colpi sul pavimento per far tacere la bambina. «Stai zitta, vado giù e torno subito. Zio Zua sta male, ha mal di pancia, vado a dargli la medicina. Non muoverti», disse Annessa. Ma Rosa aveva sentito le parole della nonna e ripeteva singhiozzando: «È morto senza sacramenti, è morto, che dirà la gente? Tu non hai chiamato.» «Ma sta zitta», gridò Annessa irritandosi, «se ti muovi guai a te.» E corse fuori, giù per le scale, sempre più turbata ma sempre più decisa a non tradirsi. Dall'uscio vide donna Rachele china sulla vittima, della quale aveva sollevato il capo e scuoteva le braccia. Nulla, nulla. È morto davvero, ma com'è stato, Annessa? Dio, signore mio, che dirà la gente? Ella si avvicinò e provò un senso di sollievo. Il morto aveva cambiato fisionomia, non sogghignava più. «Prenderà un malanno a stare così scalza», disse a donna Rachele respingendola. «È morto, non vede, è già freddo. Stanotte ha avuto un altro accesso d'asma, come quello di ieri notte, anzi ha gridato tanto, credevo l'avessero sentito. Poi si è calmato, si è addormentato. Anche io ero stanca, mi sono addormentata profondamente. Poco fa mi sveglio, ascolto, non sento nulla, sto per riaddormentarmi, ma poi ho una specie di presentimento, accendo il lume, guardo. Dio, Dio, perché non hai chiamato stanotte? Bisogna tacere adesso, eh? Non bisogna dire che è morto così senza che noi ce ne accorgessimo. Sì, sì, diremo che c'eravamo tutti, disse Annessa vivacemente. Ah, ecco Don Paolo. Nel sentire i passi di lui impallidì e fu riassalita da un tremito nervoso che la costrinse a battere i denti, a morsicarsi la lingua e le labbra, ma Paolo non badò a lei. Anche lui aveva la candela in mano e corse a guardare il morto. Si chinò, lo fissò, lo toccò. Il suo viso assonnato non esprimeva né dolore né gioia. «È andato, è freddo stecchito. Ma com'è stato, Annessa?» domandò poi deponendo il lume sulla tavola. «Stanotte ha avuto un nuovo accesso d'asma, come quello di ieri notte», e la ricominciò. E ripeté quello che aveva detto a donna Rachele, mentre questa andava qua e là per la camera cercando qualche cosa che non trovava. «Mamma, vada a mettersi le scarpe, che cerca? C'è bisogno di disperarsi così? È morto, che dobbiamo farci?» disse Paolo, al quale era balenato in mente il dubbio che il vecchio fosse morto durante il convegno suo con Annessa. Donna Rachele non sentiva nulla, presa dal rimorso d'aver lasciato morire il vecchio senza sacramenti. Le pareva di vederlo tra le fiamme del purgatorio, con le braccia sollevate, la bocca aperta, avido di luce e di pace. Dopo aver frugato qua e là, finalmente trovò quello che cercava. Un piccolo crocifisso nero che mise sul petto del morto. «Bisogna lavarlo e cambiarlo», disse calmandosi. «Annessa, va, accendi il fuoco e metti un po' d'acqua a scaldare. Che fai lì, istupidita? Annessa, Annessa, che hai fatto?» Questo rimprovero, sebbene dolce, colpì Annessa. Oramai ogni parola aveva per lei un doppio significato. Ma mentre accendeva il fuoco per scaldare l'acqua da lavare il cadavere, ripeté a se stessa che bisognava essere forte, pronta a tutte le sorprese. Dopo un momento s'udì la voce di Don Simone. «Ma che è stato? È morto, forse? Cosa dice Annessa? Perché non ha chiamato?» «Che colpa ha quella lì? Lasciatela tranquilla», disse Paolo, irritandosi perché donna Rachele ricominciava a lamentarsi. «È morto e sia pace all'anima sua». «Ma è questo, Paolo», riprese la vedova. «Ma lasci andare, mamma. Crede lei che se egli si fosse confessato sarebbe andato in paradiso?» «Paolo», disse il nonno con voce grave e triste, «rispetta almeno i morti». Paolo non replicò. Nel silenzio improvviso si sentì il pianto di Rosa e subito zio Cosimo Damiano, avanzandosi con la bimba fra le braccia, domandò: «E Annessa? Ditele che dia attenzione a Rosa. Ma che è avvenuto? E Annessa che ha fatto?» Annessa e Annessa, tutti se la prendevano con lei, ma ella era decisa a lottare contro tutti. Uscì nel cortile e attinse l'acqua. Il cielo, non ancora bianco ma già pallido di un vago chiarore, annunziava l'alba. La luna, grande e triste, calava dietro il muro del cortile. Le stelle tremolavano, velandosi, quasi impazienti di andarsene. Annessa avrebbe voluto che la notte non finisse ancora. Aveva paura della luce, della gente che si sveglia e pensa ai casi altrui con malignità. La gente? Ella odiava la gente, questa vipera crudele alla quale bisogna dar da succhiare il proprio sangue. Per la gente, ella aveva rinunziato al sogno di tutte le donne oneste, al sogno di sposare l'uomo che amava. Per la gente, per le sue mormorazioni, per il martirio che avrebbe fatto subire a Paolo se egli lasciava scacciare i nonni e la madre dalla casa degli avi, ella aveva commesso un delitto. Ed ecco che fra poco la gente si sarebbe svegliata e avrebbe invaso la camera ove giaceva il morto e lo avrebbe scoperto, denudato, esaminato. Forse avrebbe indovinato la terribile verità. Più tardi, mentre ella e donna Rachele lavavano il cadavere, don Simone, zio Cosimo e Paolo, seduti attorno al fuoco, presero appunto a parlare delle seccature che il prossimo infligge in certe occasioni. Zio Cosimo piangeva, cercando di nascondere il viso dietro la testona di Rosa. La bimba gli si era addormentata sulle ginocchia, ma ogni tanto aveva un fremito e con la mano calda gli stringeva forte un dito. «Sì», diceva don Simone, «ora verranno a seccarci. In queste occasioni, quando maggiormente si ha bisogno di tranquillità, la gente viene a immischiarsi nei fatti nostri. Gli antichi seppellivano in casa i loro morti, senza bisogno di star lì a fare i funerali. Così almeno raccontano, nei nuraghes che servivano di abitazioni, si trovano le ossa dei morti». «No, per esempio», esclamò Paolo, «zio Zua, io non lo vorrei seppellito in casa, sia pace all'anima sua, ma ci ha troppo tormentato». «Lasciamo correre 30 giorni per un mese», disse don Simone. «Misura le tue parole, Paolo, non parlare così davanti alla gente che appunto in queste occasioni osserva tutto». «Io sono sincero, babbo De Cherchi, vi assicuro che mi dispiace la morte del vecchio, ma non posso piangere». «Perché tu sei troppo attaccato alla vita, figlio mio», disse allora zio Cosimo. «Neppure lo spettacolo della morte ti impone rispetto». Era forse la prima volta che zio Cosimo gli parlava così aspro. Paolo si turbò più per queste brevi parole del nonno materno che per i continui rimproveri di don Simone. «Attaccato alla vita», disse amaramente come fra sé, ricordando che il giorno prima aveva pensato di uccidersi. «Se fossi stato così come voi dite, avrei... Basta, non è ora di parlare di queste cose. E allora taci, un morto è là. Pensa piuttosto che tutti dobbiamo morire. Sua De Cherchi non era un vile che si possa chiacchierare e scherzare davanti al suo cadavere. Era un uomo valoroso e soprattutto un uomo onesto, lavoratore e giusto. I mali fisici lo avevano reso aspro, ma spesso è nell'amarezza che si dicono le verità. E la verità è quella che dispiace». Paolo non rispose subito. Dopotutto, egli era un figlio e un nipote rispettoso e non aveva mai questionato coi suoi maggiori, anche perché lo giudicava inutile. Non aveva mai questionato, ma sempre fatto il comodo suo, anche perché credeva di essere infinitamente superiore per intelligenza e volontà ai suoi nonni ignoranti e semplici. Le parole insolite di zio Cosimo in quell'ora funebre lo colpirono vivamente, anzi gli dispiacquero. Ma poi pensò che forse il nonno aveva ragione e forse per questo volle, dopo un momento, replicare. «Un giusto», mormorò. «La morte del giusto però non l'ha fatta». «Taci, taci dunque», disse allora don Simone, che s'era messo a pregare quasi a voce alta. «Tu non sai quello che dici. Perché non ha fatto la morte del giusto? Non è morto nel suo letto? Di morte naturale? Perché non si è confessato? Ma il Signore è misericordioso e la sua bilancia pesa le buone e le male azioni meglio del come possiamo pesarle noi». Annessa entrava ed usciva e sentì le parole del vecchio. Se avesse potuto sorridere, ella che non credeva in Dio e in una giustizia sovrumana avrebbe sorriso, ma pensava ad altro. «Avete finito?» domandò zio Cosimo mentre ella versava fuor dalla porta l'acqua con cui donna Rachele aveva lavato il cadavere. Ella s'avvicinò al focolare e fece cenno di no. Non parlava più. Le sue labbra sembravano sigillate. Paolo riprese: Non pesino le mie parole sul morto, ma credo che la bilancia eterna abbia bisogno di tutta la misericordia del Signore per figlio di Sant'Antonio, proruppe di nuovo zio Cosimo. Non hai capito che non ti conviene di parlare così, sta attento. Ma infine, che ho da temere? Esclamò Paolo. Spero che non diranno che l'ho fatto morire io. Ah, possono dirlo invece, rispose il vecchio abbassando la voce. E poi non si tratta di questo ora. Si tratta di pregare o di stare zitti. E poi, disse Don Simone agitando una mano in aria e dopo un momento di silenzio aggiunse. Egli non era poi così cattivo, no. Egli voleva farci del bene, forse noi non abbiamo saputo trattarlo né conoscerlo. Lo abbandonavamo ogni giorno di più, lo lasciavamo solo, ci ricordavamo di lui quando ne avevamo bisogno, sì, proseguì a bassa voce. Non lo amavamo come forse meritava. E lui ora, posso dirlo, lui voleva farci del bene. Aveva incaricato prete Virdis di acquistare la casa e la tanca. Paolo sollevò vivacemente il capo e vide che Annessa, in fondo alla cucina, guardava fisso Don Simone. Pareva spaventata. «Basta, preghiamo», concluse il vecchio nobile, «e non giudichiamo mai il nostro prossimo prima di averlo conosciuto». Ma Paolo odiava zio Zua anche morto e giudicò opportuno far sapere ai suoi nonni che non avrebbe avuto bisogno dell'aiuto del vecchio avaro. «Lasciamolo in pace», disse, «ma se egli veramente voleva farci del bene, poteva risparmiarci tanti dispiaceri. Poteva risparmiarmi di correre tutto il circondario sotto il sole e sotto la pioggia e di umiliarmi a tutti gli strozzini, a tutte le donnicciole, a tutti i villani che incontravo. Voi volete che non parli, ma io non posso tacere. Ancora poche parole. Ieri notte ho fatto tardi, non ho voluto svegliarvi. Ho trovato i denari, ma con quale umiliazione. Da una vedova di fama equivoca ho dovuto prenderli e li ho presi. Che dovevo fare?» aggiunse difendendosi da rimproveri che i vecchi non pensavano di rivolgergli. «Avevo l'acqua alla gola, ancora un po' e mi sembrava di dover affogare. Ma chi dice nulla? Se tu restituirai quei denari, che ti importa della fama della vedova?» «Li restituirò, certo, e non crediate che li restituirò con l'eredità del morto, no. Voglio dirvi anche questo. Ho trovato un impiego, lavorerò, andrò nelle miniere.» I due nonni lo guardarono e Don Simone scosse la testa. Ed anche zio Cosimo, nonostante tutta la sua bontà solita, il suo compatimento, la sua tenerezza, strinse le labbra e fece cenno di no. No, no, egli non credeva alle parole del nipote. Ma Paolo non replicò oltre. Aveva detto tutto quello che gli premeva di far sapere ai nonni. Il resto lo avrebbe detto a sua madre, più tardi. Adesso non ci pensava neppure. I vecchi ricominciarono a pregare ed egli chinò la testa sulla mano e si immerse nei propri pensieri. Dopotutto, lo spettacolo della morte, benché non gli riuscisse nuovo, lo rattristava. E gli faceva ritornare alla mente mille quesiti vecchi come il mondo e sempre nuovi e sempre difficili da risolvere. Finisce tutto con la morte. Abbiamo davvero un'anima immortale. E dove va quest'anima dopo la nostra morte? Dov'è l'anima del vecchio asmatico? Esiste davvero il Signore, il Dio dei nostri padri, seduto sulle nuvole? Il vecchio Dio giusto e terribile, il Dio con la bilancia, tanto amato e tanto riverito dai vecchi nonni. Paolo non sapeva. Ricordava la morte del padre, la morte della moglie, ma ricordava che allora la disperazione e il dolore non gli avevano permesso di rispondere ai terribili quesiti che adesso gli ritornavano al pensiero. Si trovava in ben diverse disposizioni d'animo. Adesso era quasi felice. Si sentiva giovane, forte, pieno di buona volontà. L'avvenire gli appariva quasi roseo. Era quindi propenso a credere all'esistenza di Dio e della sua bilancia e, in conseguenza, della sua giustizia. Annessa invece, appresa la notizia che il morto voleva far del bene alla famiglia, era diventata ancor più cupa e silenziosa. Donna Rachele intanto compiva i riti funebri con una specie d'esaltazione religiosa. Pregava e sospirava e ogni tanto mormorava: «Morto così, Annessa, morto così!» Annessa taceva. E quando il cadavere fu rivestito e ricoperto con un drappo di damasco giallognolo e la luce glauca dell'alba, penetrando dalla finestra, si fuse col chiarore rossastro dei ceri che ardevano sui vecchi candelabri dorati, il viso di lei, immobile nel cerchio del fazzoletto nero, apparve come una maschera di cera. Appena fu giorno, ella andò a chiamare prete Virdis. Egli sospese di dire la prima messa per correre nella casa visitata dalla morte. Entrato nella camera dove zio Cosimo vigilava il cadavere, si inginocchiò e pregò. Poi uscì in cucina, sedette vicino alla tavola e per qualche minuto stette silenzioso, rosso e gonfio più del solito. Ma ad un tratto si sbatté il fazzoletto turchino sulle ginocchia, abbassò e sollevò il capo. Sbuffò. Annessa mi ha raccontato che eravate tutti presenti quando zua è morto. E perché non mi avete chiamato, Angelo Santos? Che male avete fatto? Donna Rachele mise sulla tavola un involto e sospirò. E sebbene con ripugnanza sostenne la menzogna di Annessa. Egli aveva di questi accessi quasi tutte le sere. Il medico aveva ordinato un calmante che riusciva sempre efficace. Stanotte però il male è stato così forte d'improvviso che Annessa non ha fatto in tempo a versare il calmante nel bicchiere. Abbiamo trovato questo involto tra i materassi e non l'abbiamo aperto aspettando che lei venisse. Apritelo pure, disse prete Virdis. L'altro giorno egli mi aveva consegnato le sue cartelle e il suo testamento. Tutto in buone mani, mormorò donna Rachele svolgendo il pacco trovato tra i materassi. Ma Paolo, che s'era avvicinato per guardare, emise un'esclamazione di rabbia, si strinse la testa tra le mani e cominciò ad agitarsi. Egli aveva mandato via di casa il testamento. Mi credeva dunque capace di falsificarlo, sono dunque giudicato così vile. E anche lei, prete Virdis, anche lei mi ha giudicato così vile? Pensiamo ad altro, rispose il prete agitando il fazzoletto. Io ho compiuto la sua volontà e null'altro. Ora pensiamo a seppellirlo, poi parleremo del resto. Tu, Paolo, andrai a dare l'avviso al sindaco. Io penserò ai funerali. Io, gridò Paolo battendosi le mani sul petto, io me ne vado subito in campagna. Nessuno mi ha veduto tornare ieri sera. Il mio cavallo forse è ancora da zio Castigo, no? Aggiunse. Non posso restare qui oggi. Sono troppo irritato, prete Virdis. Egli mi offende anche dopo morto. Vado via. Potrei parlar male e ogni mia parola sarebbe pesata. Dammi la bisaccia, Annessa. Mettici dentro un pezzo di pane. Paolo, abbiamo da pensare ad altro, disse donna Rachele. E Annessa non si mosse. Ma egli, offeso per l'affare delle cartelle del testamento, era deciso ad andarsene. L'idea di dover restare tutto il giorno a casa e mentire davanti agli estranei, un dolore che non sentiva, aumentava la sua agitazione. Disse: me ne andrò nell'ovile di zio Castigo. Va pure, cattivo cristiano, va. La volpe cambia il pelo ma non il cuore. Va, va, disse il prete agitando sempre il suo fazzoletto come per scacciare le mosche. E Paolo si mosse per uscire. Donna Rachele e Don Simone, che in fondo giustificavano la sua collera, non lo trattennero. Solo Annessa gli corse dietro e gli disse supplichevole: tu non farai questo, tu non andrai, Paolo, che dirà la gente? Se qualcuno mi vedrà tornerò indietro, egli promise. Lasciami andare, è ancora presto, nessuno mi vedrà. Uscì e non tornò. Don Arachele, prete Virdis e Don Simone confabularono a lungo, poi il sacerdote se ne andò promettendo di provvedere a tutto per i funerali. Più tardi la casa si riempì di gente, vicini, parenti, amici. Vennero anche i due vecchi fratelli che il giorno prima avevano preso parte al pranzo dei poveri e l'amico del defunto diceva: «Come si muore presto! Ieri ancora Zua era pieno di vita». Egli correva e saltava come una lepre che presente la pioggia, osservò ironicamente l'altro fratello. Poi venne il falegname con la cassa, il morto fu messo dentro con le sue medaglie e il crocifisso nero.